I already know the answer. You are a disgrace. 也门的野中友好协会主席加迈尔。 Now to have psychologists and psychiatrists. 据说加迈尔先生在中国留学多年。 Jefferson Ming e l'arte del sorpasso di Stefano Pistolini. I think that a new president can do an enormous amount to restore confidence, to move an agenda forward that speaks to the needs of the economy and the needs of middle class families all across the country. I've outlined during the course of the campaign some critical issues that I intend to work on. Questo è Barack Obama al suo esordio come presidente eletto. È successo venerdì, è successo a Chicago, ha ricevuto tra l'altro delle recensioni positive nella sua prima uscita con in tasca il mandato di presidente. Ha appena detto: io sono consapevole che un presidente degli Stati Uniti abbia facoltà di fare molte cose, cose molto importanti, molto significative per migliorare in sostanza la qualità della vita dei cittadini di questa nazione. Io ne ho parlato, ne ho discusso a lungo durante la campagna elettorale e adesso è arrivato il momento di agire. Insomma, tutto ha cominciato a correre. Questo è il messaggio che ci viene voglia di raccontare oggi all'inizio della settimana dopo, la settimana dopo la settimana epocale durante la quale Barack Obama ha stravinto le elezioni per la presidenza degli Stati Uniti d'America. Manca un sacco di tempo, mancano 2 mesi e 10 giorni circa a occhio all'insediamento, ma già poche ore dopo la vittoria Barack Obama ha cominciato a muoversi, si è messo in moto da un lato in modo estremamente prematuro, estremamente accelerato e bisogna dire anche con la collaborazione della Casa Bianca, dell'amministrazione Bush, che forse ha voglia di uscirne rapidamente e di uscirne anche bene, facendo una buona figura, favorendo una transizione morbida con la successiva amministrazione. Sono cominciati presto i lavori che culmineranno oggi, questa sera, ora italiana alle ore 20, ma alle 14, ora americana nel fuso orientale, con la prima visita in un certo senso operativa, certo una visita formale, ma è densa anche di contenuti pratici, di Barack Obama alla Casa Bianca. Alle 14 Obama e George W. Bush, 43esimo e 44esimo presidente degli Stati Uniti d'America, siederanno insieme nello studio ovale e discuteranno naturalmente delle grandi questioni sul tavolo in questo momento. Tutto ha cominciato a correre anche perché la squadra di Barack Obama è in rapida formazione. È stato già individuato il capo dello staff, si chiama Rahm Emanuel, è un personaggio molto interessante, molto significativo e molto destinato a far parlare di sé, perché non è sicuramente uno che le manda a dire e è anche un personaggio insolito anche per alcune sue caratteristiche sia politiche che personali, inserito nello staff di Barack Obama. È stato chiarito chi è il capo dello staff di transizione, cioè l'uomo che governerà, che supervisionerà il passaggio di consegne, e si chiama John Podesta, tra l'altro una persona che abbiamo avuto il piacere di conoscere, di incontrare più volte negli Stati Uniti. È un clintoniano di ferro, a sua volta è stato capo dello staff di Bill Clinton, ha una grande esperienza di Casa Bianca, quindi sa in quali cassetti andare a guardare per raccattare le carte utili per la prossima amministrazione, se ci passate questo eufemismo. È un personaggio duro, abile, sbrigativo, molto molto adatto a questo tipo di funzione. E poi sta cominciando il toto nomine, insomma intensissimo, con star anche del mondo della finanza, naturalmente della politica, ma anche del costume americano, coinvolte a più in diversi possibili posizionamenti, con molte tentazioni bipartisan, per cui si parla di parecchi repubblicani, uno davanti a tutti, Colin Powell, che potrebbero entrare a far parte dell'amministrazione Obama, e questo sarà uno spettacolo, ma soprattutto una notizia nella notizia, ma soprattutto Barack Obama ha dato delle priorità, ha detto chiaramente che intende muoversi subito perché la situazione è grave e richiede una immediata mobilitazione, quindi sono finiti i tempi dei grandi discorsi, sono finiti i tempi dei grandi appelli, il risultato è stata raggiunta, la truppa di 8 milioni di attivisti portati per strada da David Axelrod può tornare tranquillamente alle proprie case e alle proprie occupazioni, adesso arrivano i professionisti e saranno loro a fare il lavoro grosso, il lavoro urgente. Ci sono delle priorità pronunciate da Barack Obama in queste sue prime uscite, ha detto chiaramente che la priorità numero uno in assoluto è attivare un altro pacchetto di provvedimenti economici, compreso uno stanziamento vero e proprio, pensato in buona parte in favore ad esempio dell'industria dell'automobile americana, che includa anche un primo sollievo fiscale per la classe media, uno degli argomenti principe di questa campagna elettorale. La seconda priorità riguarda l'energia, la terza priorità sarà la sanità, la quarta priorità sarà un ripensamento del sistema fiscale, la quinta priorità sarà l'educazione dei giovani, l'istruzione. E ci sono altri temi in lista d'attesa, ma sicuramente non dimenticati, a cominciare dalla programmazione del ritiro dall'Iraq, i discorsi da avviare con l'Iran, la regolamentazione dell'immigrazione, la scottante questione Guantanamo, chiudere il centro di Guantanamo, avviare a regolare i processi quanti sono chiusi là dentro, la rinegoziazione delle regole commerciali con i paesi vicini. Questo è Obama 2008 all'altezza del 10, 11, 12 novembre, di questi giorni in cui tutto si sta preparando, tutto sta partendo, i nomi stanno venendo a galla. Dall'altra parte ci sono cose interessanti, altrettanto interessanti, il grande processo interno, il grande esame di coscienza che i conservatori e i repubblicani americani stanno avviando, e sarà un procedimento altrettanto appassionante, anche perché ci sono personalità nuove o personalità dimenticate, un nome per tutti, Newt Gingrich, all'orizzonte, che si stanno manifestando e su cui converrà ragionare. Come vedete lo scenario è vivissimo, ma poi a un certo punto Barack Obama si ferma e, scherzando, risponde alla domanda di un giornalista. I'm wondering what you're doing to get ready. Have you spoke to any living ex-presidents? What books you might be reading? Everyone wants to know what kind of dog are you going to buy? For your girls, have you decided on a private or public school? Insomma, in sostanza gli stanno chiedendo se ha scelto il cane e se ha scelto le scuole per le figlie. Lui, che indubbiamente è stato un candidato molto diligente e paziente, e sembra essere anche un presidente tale, risponde che il cane lo avrebbero scelto, però siccome una delle sue bambine soffre di allergie, non sarà una bella palla di pelo come piacerebbe a lui, ma sarà un cane antiallergico. Io non sapevo neanche che esistessero, ma esistono, anzi datemene dei particolari se ne sapete come si fa a trasformare in un cane. Sarà un cane a pelo corto, immagino. E poi fa sapere che Michelle, che non ha nessuna fretta di diventare una first lady operativa, insomma di giocare al tavolo della politica americana, si occuperà da brava madre a farsi un giro nelle scuole di Washington e a trovare quelle giuste per le sue figlie. Questo è il lato mondano, questo è il lato umano di un personaggio che, come nessuno negli ultimi anni, ha riempito l'immaginario dell'America e che noi seguiremo in questa fase di transizione, come seguiremo, ripeto, quello che accade dall'altra parte, quello che accade tra i conservatori, dove un'America conservatrice si avvia a rinascere e a trovare le proprie giuste motivazioni. Da qui si riparte per un altro grande viaggio. Now when I was a little boy, at the age of 5, I had something in my pocket, keep a lot of folks alive. Now I'm a man, you know, baby, we can have a lot of fun. I'm a man, I spell M-A. and make love to you, baby, in an hour's time. I'm a man. Spell him A. Going back down the Kansas Zoom, bring back the second cousin, little John. Il santo sepolcro, caro Emiliano, le botte che si sono dati, altro che... È arrivato anche sulla Fox. Che risse elettorali. Beh, il mondo, insomma, ha gli occhi aperti. Stiamo guardando Fox News, mandano un servizio su quello che è accaduto al Sacro Sepolcro di Gerusalemme, quando monaci e fedeli di diverse confessioni sono entrati in contatto, no? Come si diceva una volta, qualcuno ha perso la brocca con i tifosi. Beh, ma lì l'aria, mi è capitato di andarci lì, l'aria è sempre molto surriscaldata, non so come dire, le passioni sono espanse. Volevo chiudere con ancora una virgola su Rahm Emanuel, il personaggio. Vi dicevo, è interessantissimo. Hey guys, how's everybody doing? How are you? Good. Here's it's the good deal. To see you. Here's the deal. Ready? Wait. Don't worry, you okay? Yeah. It's not gonna be that big. Don't worry about it. Don't worry, Marianne, there's not a big deal. Ecco che comanda come un plotoncino di soldatini un gruppo di reporter, di solito piuttosto accaniti. Li fa spostare, li sistema, gli dice: adesso vado a mangiare con mia moglie, non datemi fastidio, non vi dico dove, non sono fatti vostri. Poi si lascia un po' andare alla commozione, dice: beh, ho accettato questo incarico, sono felice che i miei genitori mi vedano in una posizione così importante di responsabilità nell'ambito di una presidenza così storicamente significativa come quella che sarà di Obama. Quest'uomo ha esperienza di Casa Bianca, ha lavorato con Clinton, anche lui è un conterraneo dell'Illinois, viene da Chicago anche lui come Barack Obama, ne condivide la visione ma la interpreta e la coniuga in una chiave diversa. È ebreo, è stata festeggiata la sua nomina, ad esempio, da tanti ebrei, ma anche in Israele è stato segnalato come un gesto subito, non una mano tesa nei confronti di Israele. È anche un ballerino provetto, ha esperienze di balletto classico, c'è addirittura una nutrita mandata di indiscrezioni che riguardano una sua eventuale omosessualità, per quanto appunto sia regolarmente sposato. Forse viene dal balletto classico, ma questi sono un po' i luoghi comuni, no? Insomma, della cultura popolare, che comunque ha fatto applaudire alla nomina anche la vasta comunità omosessuale americana. È soprattutto un uomo dalla lingua svelta e delle idee e da idee ancora più svelte. Più tardi, magari con Mario Platero, faremo due chiacchiere, per esempio, su alcune strategie che sta indicando come proprie della nuova visione della crisi economica da parte dell'amministrazione Bush. Ma adesso spostiamoci, cambiamo argomento. Prima pagina. Allora, andiamo in Cina. Naturalmente la notizia più importante di questi giorni, forse di queste settimane dalla Cina, è anche oggi su tutti i giornali italiani questo grande piano economico di stimolo, così ufficialmente è stato detto dal governo di Pechino, 586 miliardi per riaccendere un'economia che non è assolutamente in crisi come dalle nostre parti o come in America, ma che comunque forse non corre più come avveniva fino a qualche tempo fa. Ne parleremo più tardi con Luca Vinciguerra in diretta da Shanghai. E invece c'è un'altra spina nel fianco cinese che forse si era un attimo tranquillizzata negli ultimi mesi, quella di Taiwan, che torna a pungere, perché addirittura ci sono tre delegazioni ufficiali dalla Cina che hanno cancellato il programma di visitare Taiwan per motivi di sicurezza. Infatti la settimana scorsa c'era stata la più importante visita di un delegato cinese nell'isola, sull'isola di Taiwan, da 60 anni a questa parte, però il negoziatore di Pechino Chen Yunlin è stato oggetto di critiche ma anche di quasi aggressioni da parte delle frange nazionaliste taiwanesi, si è veramente rischiato lo scontro come al Santo Sepolcro, e quindi c'erano in programma altri 3 viaggi dalla Cina verso Taiwan, sono stati cancellati per non saperne leggere né scrivere, insomma, per evitare problemi indietro, di sicurezza. Il clima sembra che si sia un po', insomma, non sia più sereno come fino a poche settimane fa, nonostante la vittoria poi del partito più filo Pechino, più vicino, diciamo, alla distensione nel marzo scorso, che avrebbe dovuto riavvicinare finalmente l'isola con la Cina continentale. Leggo qualche messaggio che ci state inviando. Prima di tutto, gentilmente, Marco ci informa, caro Emiliano, possiamo quindi dare una risposta. Un interessa anche me, tra l'altro, perché io sono allergico, non gliene frega niente a nessuno, ma io sono allergico ai peli dei gatti. Ve ne frega qualcosa? No, però ve lo dico lo stesso. E Marco, per esempio, ci informa che esiste anche il gatto antiallergico, quindi io potrei, se decidessi, avere un gatto. Anche di questo non me ne frega niente. Comunque ci spiega che sono modificati geneticamente, quindi cani e gatti antiallergici esistono, frutto di chissà quale. Quale incrocio di Frankenstein. Poi diversi ascoltatori, chissà perché, si incuriosiscono, vogliono sapere dove sono i Clinton, Hillary, Bill. Beh, effettivamente non sono stati molto sulla scena in questi giorni. È perché dovrebbe essere è un commento di rito a Clinton. Sono a leccarsi le ferite in quel di Chappaqua, no? Nella loro bella mansion. Cioè, stai dicendo che stanno rosicando. A meditare. Hillary deve meditare sul suo futuro, come metterla, diventare governatrice, restare in Senato, cercare un posto nell'amministrazione alla Obama, Corte Costituzionale. Sono ragionamenti complicati. Allora, veniamo in Cina, è un'altra spina nel roseto così della Cina, cioè il Tibet, perché c'è una dichiarazione molto votata al pessimismo di alcuni rappresentanti del governo di Pechino riferita agli inviati del Dalai Lama, e secondo il giudizio sferzante di Pechino non ci sono stati progressi negli ultimi mesi, quindi tutti questi colloqui bilaterali non hanno di fatto portato a nulla. C'è stata una conferenza stampa proprio oggi a Pechino nella quale si è in qualche modo fatto il punto della situazione, si accusa il Dalai Lama, che è in esilio, lo ricordo, dal 59 in India, e secondo il quale, insomma, il Dalai Lama sta tentando la via di una genuina autonomia del Tibet. La parola genuina non è assolutamente positiva in questo contesto, si fa riferimento peraltro alla linea dura da parte della Cina, che non permetterà mai una secessione su base etnica in nome appunto della genuina autonomia del Tibet. E ancora una volta si ribadisce che resterà chiusa in ogni caso la porta per l'indipendenza, la mezza indipendenza o l'indipendenza mascherata del Tibet. Quindi si preannunciano anche qui tempi duri tra Tibet e Cina. Passaggio di consegne. E abbiamo cambiato la sigla, avete sentito? Abbiamo sancito l'avvento del numero 44 alla Casa Bianca, almeno il procedimento di avvicinamento che si chiama transizione, e abbiamo chiamato per fare una breve conversazione al riguardo Mario Platero, corrispondente dagli Stati Uniti per il Sole 24 Ore, che ci ha accompagnato lungo tutta questa lunga campagna elettorale e che adesso ci aiuterà anche a decifrare i significati non sempre immediati, no, di questa transizione. Buon pomeriggio, Mario. Eccoci, sì, buon pomeriggio a voi. Mario, ho una cosa che vorrei così sottoporti per avere un tuo parere. Ho trovato molto interessanti alcune dichiarazioni fatte da Rahm Emanuel in coincidenza con la prima uscita pubblica di Barack Obama, in cui anche il punto di vista, sarà che sono giovani, sono freschi, sono appena arrivati, sono pieni di entusiasmo, ma insomma anche il punto di vista su come approcciare la profonda crisi finanziaria economica che sta piagando gli Stati Uniti. Ricordiamo oggi per esempio sono stati annunciati licenziamenti dalla principale ditta di consegne a domicilio, Circuit City ha chiuso, insomma c'è una situazione veramente di grande agitazione anche nel mondo del lavoro americano. Però Rahm Emanuel, parlando dei primi provvedimenti, delle prime strategie allo studio del nascente team di Obama, ha detto una cosa molto interessante. Ha detto: guardate che dal nostro punto di vista una crisi è un momento grave che va affrontato con riflessione e attenzione, ma è anche una grande occasione, un'occasione densa di opportunità. Ci sono a saperci si muovere dentro, non so come dire, ci sono opportunità per ripartire, per attivare sinergie. Le macchine americane non si vendono più bene, allora cominciamo a produrne diverse, cominciamo a produrne che vadano con energie diverse. Ecco, tutto ciò è un po' il sintomo di un'angolazione, di un approccio che possiamo, secondo te, definire diverso e forse promettente. Che ne dici? Sì, direi, guarda, che le parole di Manuel sono chiaramente mirate appunto a cercare di dare una direzione diversa a questo piano di salvataggio. Per esempio, lui stesso ha detto che alcuni dei fondi che potrebbero essere destinati al settore auto potrebbero essere prelevati direttamente dal pacchetto che era stato confezionato e preconfezionato per le banche. Lo stesso Barack Obama ha detto che il settore auto è la spina dorsale del settore manifatturiero americano, non solo per il fatto che così storicamente rappresenta quello che rappresenta, ma perché ha un indotto straordinario e quindi altre decine, centinaia di aziende ruotano attorno a questo settore. E qui si inserisce appunto quello che dicevi tu, cioè l'idea che in cambio di aiuti, in cambio di prestiti agevolati, in cambio magari di capitale a fondo perduto, il settore auto cominci a mettere in cantiere dei progetti per vetture che dal punto di vista ambientale possano essere più moderne e soprattutto possano consentire risparmi di carburante, magari lavorando al famoso motore elettrico e così via. Ecco, sta cominciando a prendere forma, se vuoi, una politica industriale, cosa di cui da tempo non se ne parlava più, tutto era affidato molto al mercato, alle reazioni del mercato, alla riduzione dei costi, alla concorrenza giapponese che potendo contare su costi di produzione più bassi riusciva in qualche modo a imporsi sul mercato americano e così via. Ecco, quindi c'è questo primo tentativo di cambiamento, ma siamo agli albori, è un embrione, siamo soprattutto all'inizio di una crisi economica. Tu accennavi prima appunto alcune difficoltà, ma altre verranno. Il contagio dall'economia finanziaria, l'economia reale ormai è piuttosto vicino. Barack Obama nel suo incontro con i giornalisti ha detto che uno dei suoi obiettivi era proprio di evitare che ci fosse questo contagio. Ho paura che il contagio c'è già e quindi dovremmo comunque vedere che tipo di decorso questa malattia, questo brutto momento per la finanza e l'economia americana poi certo avrà nel tempo davanti a noi. Senti, l'uscita di scena dell'amministrazione Bush sembra improntata, no, a una grande morbidezza, c'è questo anticipato ma molto fluido per ora interscambio, sembra che i due team abbiano voglia di collaborare, si comincia di tanto in tanto dentro i cassetti a trovare qualcosa di inatteso. Che cosa ci dobbiamo aspettare da questa, a tuo parere, da questa uscita di scena di un'amministrazione così complessa e così anche, no, piena? Beh, diciamo sul piano personale, George W. Bush è un uomo che ha un altissimo rispetto per l'ufficio della presidenza della Casa Bianca, lo considera un po' un club, quindi ha invitato Barack Obama. Oggi ci sarà questo importante incontro, il certo primo incontro. Credo che Bush lo vedesse più come un'occasione, se vuoi così, più di fair play, più certo di occasione di avvicinamento umano e di immagine pubblica, di continuità dell'ufficio al di là delle differenze politiche. Beh, direi che Obama in qualche modo ha fatto trapelare una serie di notizie e di idee che che invece danno a questo incontro qualche cosa di più marcatamente politico. Come sapranno i nostri ascoltatori, Obama ha fatto capire che intende eliminare circa 200 ordini esecutivi che erano stati firmati da George W. Bush, quindi insomma nel momento in cui oggi i due si incontreranno credo che inevitabilmente parleranno anche di questo. Alcuni molto cari repubblicani, per esempio il fatto che non ci saranno, sarà eliminato un ordine che impediva di dare sovvenzioni a organizzazioni straniere che appoggiavano l'aborto, e così via, così via. Sul piano economico c'è la questione delle trivellazioni, per esempio, che George W. Bush aveva ordinato le trivellazioni. Ecco Mario, diversi ascoltatori ci scrivono, alla luce anche di tutta tutte queste informazioni che gli rovesciamo addosso, ci scrivono per capire che cosa Obama realisticamente può già fin d'ora fare, cioè cosa può attuare. In realtà pochissimo, o sbaglio? Fin d'ora nulla, del resto lui stesso ha detto che c'è soltanto un presidente per volta in America, esatto. Il presidente è George W. Bush, non è lui, sta preparando il terreno, ci sono squadre di esperti che stanno cercando di identificare una serie di provvedimenti che possono essere eliminati, per esempio il finanziamento per la ricerca sulle cellule staminali, certo, e quindi ampliare il ricerco sulle cellule staminali. Ecco, sono una serie di provvedimenti che nel primo giorno in cui Barack Obama sarà presidente si vuole avere il terreno pronto, e quindi lui potrà firmare ordini esecutivi contrari, eliminare questi ordini esecutivi, quindi fare marcia indietro, certo, su tutta una serie di cose, e da lì in avanti. Ma non immaginiamo che da oggi in avanti, certo, Obama possa fare qualche cosa. Fino al 20 gennaio il boccino resta in mano a George W. Bush. Per concludere, una tua impressione personale su questo debutto dal punto di vista proprio del modo, dei toni, dei timbri utilizzati. Debutto, dici, della squadra, certo, Emanuele, perché certo, in realtà abbiamo personaggi molto diversi, sfumature molto diverse. Abbiamo John Podestà, che è un vecchio sornione, un vecchio esperto, un vecchio volpone che ha così navigato tutti i corridoi di Washington, e quindi un uomo che si muove bene in questi corridoi. Abbiamo Barack Obama, che fa il presidente supra partes, molto tranquillo, molto distaccato, e poi abbiamo Rahm Emanuel, già nominato capo di gabinetto, che invece è così, è una specie di marine col berretto alla rovescia, pronto ad attaccare, un personaggio duro, un personaggio con una serie di aneddoti che insomma lo rendono sicuramente aggressivo, sicuramente il personaggio giusto da affancare a un presidente che si avvicina al ruolo che deve svolgere, con questa immagine così un po' più soft, un po' più supra partes, un po' più sorridente. Ecco, il mastino di Barack Obama, il pitbull, tanto certo, per usare un termine che abbiamo usato in passato, sicuramente senza rossetto in questo caso, sarà Rahm Emanuel. Grazie a Mario Platero, che ci continua ad aiutare con i suoi punti di vista su quella che non è più una campagna elettorale, ma adesso è diventata, come abbiamo titolato nello spazio americano di oggi, una transizione a cui ci dovremo abituare, perché durerà parecchio. Se ne parlerà e se ne parla fino al 19 gennaio compreso, alle 8 di mattina del 20, sulle scale del Campidoglio ci sarà il giuramento di Barack Obama, e ci sarà anche il discorso di accettazione, no? Di inaugurazione del mandato. Forse sarà quella la prima occasione, dopo questi due mesi in cui ci aspettiamo un Barack Obama estremamente operativo, quella sarà la prima occasione in cui Obama magari potrà tornare a toccare, no, quei toni invece psicologici, emotivi, passionali su cui ha costruito la sua candidatura. Vabbè, visto che insistete proprio, un paio di cose sul weekend del basket americano ve le dico. Insomma, ringrazio Giacomo della sua mail, i messaggi SMS che ci arrivano. Volete sapere di Gallinari a New York? Gallinari a New York, cari amici, sta seduto, non si alza, guadagna del resto 2 milioni e spiccioli, insomma, quindi è una seduta, come dire, che può accettare di buon grado, ma Mike D'Antoni, non lo fa alzare, non fa neanche invece cambiare Stephen Marbury e Eddie Curry, cioè le due star della squadra, e misteriosamente ieri ha vinto la terza di fila. New York è 4 vittorie, 2 sconfitte, un record che non conosceva ormai da 10 anni. Evidentemente il cambio di manico conta tantissimo, gioca con una squadra di sconosciuti senza star, a parte un paio di buoni giocatori. I risultati sono straordinari, Gallinari è in lista d'attesa, ma gli conviene attendere visto il buon ambito in cui quindi si sta muovendo. Buone notizie per Bargnani e Belinelli, hanno giocato tutti e due abbastanza, 18 punti Bargnani, 7 Belinelli, due buone figure. Anche Belinelli pare di mangiarsi i suoi propositi di abbandono manifestati quando le cose non cominciavano ad andare bene neanche quest'anno. Questi sono i nostri tre moschettieri nel magnifico mondo dell'NBA, speriamo che presto se ne aggiungano altri. Quando l'hanno fatto gli americani ne abbiamo parlato per settimane, e non certo solo noi che siamo piccoli e neri, ma un po' tutti, no? I telegiornali, talk show, se ne è discusso del bailout, quei 700 miliardi di dollari, ed ecco che lo fanno i cinesi e se ne parla assai meno. Di fatto il governo cinese ha annunciato il varo di un pacchetto di provvedimenti economici destinati allo stimolo della domanda interna della portata di 586 miliardi di dollari. Siamo lì, non siamo mica tanto lontani, sono circa 455 miliardi di euro. E quanto si legge in un comunicato che è apparso sul sito dell'esecutivo, il governo ha approvato un piano di investimenti nei settori delle infrastrutture e del welfare. Il comunicato conclude annunciando l'adozione di una politica fiscale attiva con agevolazioni fiscali destinate alle imprese per 17,5 miliardi di dollari. E Wen Jiabao, il premier, ha affermato che gli aiuti che la Cina mette in campo a sostegno della sua economia aiuteranno anche tutto il mondo. Non sono solo quello che è necessario per il nostro stesso sviluppo, ha detto Wen Jiabao, ma anche il nostro più grande contributo al mondo. La situazione va approfondita, abbiamo chiamato chi ne sa più di noi, ovvero Luca Vinciguerra, il corrispondente del Sole 24 Ore da Shanghai. Buonasera Luca. Sì, buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio 24. E siccome credo che gli ascoltatori di Radio 24, anche quelli casuali, un'idea su quello che è successo in America di recente con il finanziamento sospinto dalla Presidenza e faticosamente approvato dal Congresso, se la siano fatta, proviamo a paragonare. Cioè, in Cina che sta succedendo più o meno la stessa cosa? Un'economia che comincia a sussultare, a faticare, e lo Stato che interviene come e perché? Interviene su che cosa? Su infrastrutture che generano lavoro? Che cosa sta succedendo? Ma direi che non è il caso di fare un paragone, un paragone non legge, perché come dicevi tu poc'anzi, appunto, negli Stati Uniti il pacchetto varato qualche settimana fa era un pacchetto di bailout, cioè di salvataggio, certo, di un sistema finanziario a pezzi, in crisi, che aveva corso più di quanto potesse correre. Mm-hmm. Qui in Cina si tratta di una cosa ben diversa. In buona sostanza il governo cinese, sulla scorta dei risultati del terzo trimestre del 2008, quando il prodotto interno lordo è cresciuto del 9%, quindi parliamo di una cifra altissima, certo, ma comunque meno del 10,3% del trimestre precedente, ha capito che la crescita dell'economia era in rallentamento, che la crisi finanziaria mondiale e la recessione in arrivo sicuramente peseranno anche sull'economia cinese, che è un'economia che esporta molto, e quindi ha deciso di intervenire con questo pacchetto di sostegno che appunto prevede tutta una serie di misure per sostenere la domanda interna, gli investimenti in infrastrutture, quindi appunto per sostenere il reddito interno dei cinesi in modo che continuino a consumare e che la macchina continui a girare a pieno regime. Perché il 9% viene ritenuto una soglia così? Certo. Esatto, perché in buona sostanza sotto l'8, questa è un po' la stima fatta da molti osservatori che si occupano di Cina, che il governo non ha mai smentito, anzi in qualche modo ha sempre confermato, sotto una crescita annua dell'8% l'economia cinese non è in grado di creare quei 30-40 milioni di posti di lavoro che ogni anno, di cui ogni anno ha bisogno. Ecco, quindi questa è una cifra sotto la quale, tra virgolette, l'economia cinese entra in recessione. Ecco, qui diciamo la crisi si misura con un metro diverso rispetto, certo, rispetto all'Occidente e ai paesi industrializzati. E perché Wang Jiabao così orgogliosamente dichiara di fare anche un grande, tra virgolette, regalo al mondo con questo stanziamento? Beh, perché alla fine i cinesi negli ultimi anni hanno cominciato, ovviamente hanno inondato il mondo con i loro prodotti, certo, ma hanno comprato sempre di più prodotti stranieri, sia prodotti di consumo ma soprattutto prodotti di investimento che poi usano all'interno della loro, diciamo, per sviluppare e equipaggiare la loro industria manifatturiera. Quindi il fatto di sostenere queste industrie manifatturiere, questi consumi, questi investimenti e questi consumi, in qualche modo dovrebbe dare un beneficio anche alla domanda estera. Ciò detto, ecco, sulla base così un po' di costruzione che io ho fatto, insomma, non, in realtà questo effetto è abbastanza moderato, nel, certo, senso che la Cina, grosso modo, i consumi interni della Cina, solo l'8% è costituito da prodotti importati, quindi ovviamente a ben guardare, se uno va a guardare bene le cifre, poi dietro le cifre l'effetto netto per l'economia mondiale dal punto di vista delle numerico è probabilmente ridotto. Però in questo momento, siccome il mondo ha bisogno di fiducia, l'economia mondiale, la finanza mondiale ha bisogno anche di fiducia, che non riesce più a trovare per ripartire o quantomeno per stabilizzarsi, sicuramente la mossa cinese è molto molto importante. Soprattutto è stata fatta con tempismo, il pacchetto di salvataggio di cui parlavamo prima gli americani l'hanno fatto con ritardo, i cinesi, certo, hanno dimostrato in questi anni che si muovono sempre con grande tempismo. Con tempismo e lucidità. Tra l'altro c'è anche una, ti riferisco di un'agenzia per uscita di Tremonti che a margine di un incontro Italia-Cina dichiara: non sono mai stato contro la Cina ma contro una certa idea sbagliata di Europa. Ha detto Tremonti, dove ha ricordato di aver parlato in tempi non sospetti, già all'inizio del decennio, non solo di fair trade, ma di rules fair trade, cioè di commercio equo basato sulle regole certe. L'idea di fair trade ha fatto strada, ha detto Tremonti. Non si tratta di protezionismo, ma di equilibrare la mano invisibile del mercato con quella visibile delle regole. È un problema di equilibrio. Le regole utili sono un buon investimento e l'eccesso di regole che ci spiazza. La Cina, conclude Tremonti, Luca, ha fatto bene il suo mestiere e l'Europa che non ha fatto bene il suo. Vuoi telegraficamente commentare? Direi che sono d'accordo sostanzialmente con le dichiarazioni di Tremonti. D'accordo. La Cina ha fatto quello che doveva fare, ha anche preso, diciamo, si è presa anche il beneficio appunto del vuoto politico lasciato dagli altri, in particolare dall'Europa e dagli Stati Uniti nel governare la globalizzazione, e ha fatto naturalmente il suo gioco, nel gioco delle parti ha sfruttato tutte le opportunità che le sono state date, comprese quelle di poter commerciare senza regole sui mercati internazionali, anche perché all'interno di questo commercio, bisogna sempre ricordarlo, c'erano anche multinazionali europee e americane che vendevano i loro prodotti made in Cina sui mercati internazionali, quindi Direi che sono d'accordo con Tremonti. Ti ringrazio. Grazie a Luca Vinciguerra da Shanghai, che chiude la puntata di oggi di Jefferson Ming. Naturalmente di queste questioni, macro questioni cinesi, ci occuperemo spesso e volentieri in questi giorni, che sono sotto osservazione anche in Occidente. Questo è Jefferson Ming, io sono Stefano Pistolini, in redazione Milano Enrico, in regia a Roma Valerio Rocchetti, a Milano Fabio Cantadori. Jefferson Ming @radio24.it per contattarci. Andiamo in replica stasera alle 9, in diretta domani alle 4 qui su Radio 24. I'm not sure I ain't your eyes.